400 km dal mare. Stabile buono oggi, a me pure che senza lavorare oggi la zona per me. Ah, tu va a partire che tu, io la bile è buono oggi. Lo so, Goya. E ora deve va. Allora è successo così. Terzo grado della scala mercato, mi sembra, della scala di, non me lo ricordo bene. Però è successo il tramite temporale, molti l'hanno, se ne sono accorti che ha tremato un po', molti no. Non lo so poi, io ero in pieno temporale quando è successo. Vabbè, noi siamo tanto così, no? Mi si chiama che nel 2011 finiamo quando cosa ci la mettiamo a fare? Vogliamo tutti. Bravo. Non ti ha fatto bianco Giovanni. Ma sta dicendo Luca? Cosa? Cosa mi stavi dicendo? Ma adesso? Lo vogliamo tutti dal 2012. Ma non dire queste cazzate, mamma mia. Allora cos'è? Quando è che moriamo? Quando siamo... quando diciamo dentro la stoppa? Ma dice sì. No, ma dicono che praticamente... finiamo dal 2012. Cosa dice di bro? Non lo so. Oh vabbè. Oh yeah. Perfetto. Beh, così è tu. Ma l'hai vista la comparizione di Valentino Rossi alla Ducati? Aspetta un attimo, tocca passare qua. Mi fa solo ogni volta dentro una stanza, aspetta. E ripeti? L'hai vista la comparizione di Valentino Rossi alla Ducati? Allora, un attimo. Ma c'è anche su YouTube. Sì. No, c'era un applauso, c'era quando è uscito, prima è andato, come ha dato la gazzata, tutti contenti erano. Ho fatto il test, hanno fatto 54 giri mi sembra. Ducati? E come l'hanno trasmessa? No, se non l'ho anche vista. Ma che ora? Alle 10:30 del mattino. Ma stamattina? Che eri? No, non l'ho vista tu. Se c'è su YouTube. Va bene, com'è andata? Vabbè, hanno fatto del test, adesso Valentino deve operarsi, deve mettersi in forma. Prima era andando in piano piano, era... da quel cazzo che andava in piedi la casata. Gigante. Ciao, chi sei? Trena! Comunque sono contento, sono contento Luca. Io guardo Valentino, bravo, là. Poi tu frena. Se ho capito, ho riconosciuto la voce. Comunque buonasera. Sarà proprio Lorenzo, ma secondo me come Valentino no. Non ce n'è per nessuno, ha fatto delle cose che soprattutto guarda, guidare in quelle condizioni non è tutti i giorni. Cioè, appena che si sta riprendendosi lui era subito già usato la sella, non ce la fa fisicamente molto bene perché l'ha dichiarato anche lui che dopo tanti giri tirando a morte non ce la fa fisicamente, altrimenti a Lorenzo se l'ha costato un grado se non si era fatto male. Bravo, Valentino, Valentino. Allora si deve operare le gambe, braccio, non mi ricordo adesso. Si deve operare alla spalla, non sai, e poi non mi ricordo. E si è fatto un bel male l'ultima volta. È scivolato per... non mi ricordo perché. Ma quando Valentino anda e io sarà ragione. Diciamo che ha sbagliato lui, ha sbagliato la moto l'ha tenuta e lì magari è stato un errore suo, però è importante che avere la forza di essere così, cioè mettersi tornare in sella Io ho visto anche il test che avrà fatto con la Ferrari, cioè avrà fatto 8-10 in più di Raikkonen. Cioè ti puoi immaginare, prima la pigliata è andato piano, ma poi ha cominciato a tirare e ha fatto un bel risultato. Cioè ti puoi immaginare che persona è. È una persona che è molto intelligente, secondo me ci ha preso anche la corsa nel sangue. Sì. Io era quello anche da bambino piccolino, eh. E i rischi forte, eh. Anche i zombuffi. Lo so, ma non lo so, secondo me è una persona. Guarda, ha provato di tutto. Di tutto. Rally, Formula 1. Cioè hanno fatto dei test, cioè, ed è sempre andato veloce, cioè per le prime sessioni così, cioè, che è andato molto forte, è una persona anche molto molto intelligente che vuole coraggio a fare le cose che ha fatto lui. Ah, lo so, no, comunque già è bravo, molto bravo. Guarda, stare attenti, sennò mi chiedi un casino. Ma il Papa adesso, grazie a Dio, si può anche ritirare se vuole. Ma purtroppo lui è così, cioè, lo so che uno avrebbe detto che ha fatto oramai, dopo 8 mondiali vinti, ha detto basta, ma lui è lui, no? Non è venuto a rifare. Lo so, il numero uno, quel giorno pare che è già da rispettare, vai. Ma tu presente che se era stato bene fisicamente Lorenzo avrebbe preso un colpo. Già l'abbiamo visto, già che quando stava bene ne dava di tanta ragione proprio. Ne va di tutti rigorosi. Io lo so. E vabbè. Schiappettare la moto anche lui. La mazzanga, per come se la fa andare. E vabbè. Insomma, che molte volte si sente a rischio, ecco. Ma so che lui è anche avvocato, se non sbaglio. Cos'è che tu è? Medico, cos'è? L'ho fatto così, dottor Rossi. Ma forse però qualche laurea, ma se non me lo ricordo. Dottor Rossi lo chiama. Ah, è ancora di capo, eh. Quando lui è arrivato in Yamaha, con la moto, fumava sempre. Se lo ricordi che sorpassava la gente e ci era un fumo dalle rosse. Il commentatore, guardate cosa fa! Cioè, era proprio scelerato. La moto non andava, però è la moto di andata. Giovanni, se lo guardi la moto. Non c'è più Giovanni. Lo scolare 50.000 volte col commentatore, una volta ne esce di pulmone, perché se noi ci ricordiamo bene ne combinava il Santurazzaro. Sì. So, c'ha l'arma che gli serviva definitiva pure, perché adesso tutti i pezzi, cioè la squadra, i meccanici suoi, ce li ha sempre avuti, quelli andavano a finire la bucata, quindi sapranno già preparare la moto. Poi c'è un'altra arma in più, c'è il motore sotto, è come farcela nel rettilineo, esce di teggia, non vedi niente. Io lo so, bravo, tutto campione, non ce n'è per nessuno, ecco. Non ce n'è per nessuno. E vabbè. Comunque. Casino, è un casino. Valentino, Valentino. È come per dire Schumacher, vedi? Che lui era. Ma lo so, sta sopercorrendo Schumacher, si è ritirato. Lui non ne vado neanche. Con la Mercedes sta correndo. Però secondo me più bravo pilota di tutti. Che non sbaglia, altri sono bravi ma sbagliano, secondo me è Alonso. Quinto. Secondo me il più bravo pilota è Alonso, Adesso quest'anno sta correndo con la Ferrari. Ma guarda macchina, non mi piace, non attirare. Adesso sto dicendo, il più bravo pilota secondo me, perché lui non sbaglia, gli altri sono bravi ma possono sbagliare, lui non sbaglia, e Alonso sta costruendo una giusta da Daretto a 12 di record, grazie a Guido Webber, che no, che ancora se ne è riuscito a tenere, ma poi sta volando un po' di susa. Dico una cosa, come funzionano? Funzionano le macchine, partono 3, 4, Ferrari, come funziona? Funziona. Sono le, come la MotoGP, sorpassi, devi fare la pole, la prima posizione, è come la MotoGP più o meno. No, ma dico, una volta l'ho visto, una volta, due volte, così veloce, non è che, cioè tipo due, tre Ferrari, capito? E devono correre, cosa devono fare? Sono i giri. Ma sono due, tre Ferrari, due, tre Renault, così è? No, oh, sono due, due per squadra. Ah, ecco, due per squadra. Ma proprio non mi interessa, sono mi guardi, come il dottore Otto, però di più. Quasi due motocross, io sono spettacolo, capito? Quello non mi piace, nel cross no. A me piace le gare di sfida, di motore e tutto, le gare così no, non le guardo nemmeno. Gatto gatto, no, a me piace molto il cross, così così. Ma c'è la Ducati, guarda, no, non più di tanto. Poi c'è il Fuglio, il computer va di tutto. Ah, dove vai tu, che sei il Fuglio, non c'è problema. No, quello no, non mi piacciono tipo quei con le motocross che vanno nella sabbia, no, secondo me è esibizione, no, non è la vera competizione, è sfidarsi in pista e fare il miglior giro, il miglior tempo e combattere. Altro no, non mi piace, è la miglior moto, la miglior... sono quelli che fanno motocross, che fanno, come si chiamano, salti mortali, altro che esibizionismo, quello è bello, e anche proprio quelli si arrischiano di brutto, fanno i salti mortali, poi si girano, non l'hai visto? Cazzo, le pareti sono sempre a rischio. Sì, ma non ci trovo niente di particolare. A me mi piace più le gare da pista, dove c'è veramente la sfida, cioè fra a corpo a corpo proprio, che sorpasso, tenere la testa, cioè tutte queste cose qua, miglior giro, cioè tutte queste cose a me piacciono, non mi piacciono vedere questi salti mortali, secondo me è esibizionismo, non è professionalità. No, comunque, gusti lì, va bene, via. Così, che l'auricolare mi sa far scendere, io leggero, no, una norma, qua la nanna. Ma guarda, è lui che vuole fare che lui si grabbaggia. Tu vedi. No, no, no. Mi si chiamano i negri, la baggia. Cosa? Ma sarò viago. Vedi, sono un po' puzzolente. È fascinante, guarda, io... Tanto l'anno stesso basta la signora, io quando le piazzetta, la papà c'è una lombella in mano chiusa, no, cazzo, come sta baggiarla? Forse perché li vede di quel colore lì. Sicuramente sì. Ah, ma giù, ma c'è tutta l'aria. Non facciamo, non avete un casino. È stata una tornare, si è stata zitta, no? Poi ti faccio un prendilo, cercato, prendilo, come l'ha visto, mi ha bagliato. pazzia. Infatti manca si è surfato un muro. Ecco, si è surfato. Perché lo fa? Perché loro non amano i cani. Sì. Certo. Ehi, vabbè, no, ci sono certi che... Ma secondo me l'odore, l'odore, ma sarà... Ah, no, dimmi che sono focaccione di cane. Ma dico, che cani vedono da te vero, sicuramente non li guardano. Dico, ma lui dice che cani vedono da te vero? Un sacco di cose dicono. Vede come vediamo noi. Ti allora ti dicevo, ma non lavori a tu? Se lavoro. A voi sì. Ma qua, è che fissa. Non lo so. Pare. Ma come si alimenta l'ore, ma fa passare anche la batteria. Come ti sciubare? Mica la batteria. Il computer. Ah. Cazzo, una persona, già te lo dico un giorno, no che non è più cara, manco di raccontarti neanche, mi va a vedere lì. Ehi, ho staccato la batteria, e tanto ormai, a dura un'oretta, un'ora e mezzo, e che io vado a tanto, la sta sempre attaccata, caricarla, sempre carica, dalla rovinata. Cazzo, di togliere ogni tanto. Io per esempio ho come il cellulare, stacca da solo. Titolo. Cosa? Io ho come un cellulare, stacca da solo. Ehi, ehi. Paga. Casino, ragazzi. Il computer a voi, ma. Si accende la luce verde quando è carica. Vabbè, ma mio. Io non. E beh, alle pompa anche. Sono un altro pianeta, sei vero? Allora già. Nuovo sistema. Ma non mi piace tu. Ma come uso non mi piace. Sì. Come te lo puoi trattare il computer, non l'ho compreso. Io in quel programma non vado a canto, in questo non posso cantare perché non c'ha due sole cose. Non parlo come tu musica. E che gli devi cantare? Un programma tu. Che non manda. No, qua. Cioè, se un attimo il mic non va sempre la base. Certamente c'è un programma tutto suo. Ho capito. Certamente ha un programma tutto suo. Poi mi piace un po'. Adesso vediamo. È un casino, non si può. E ma come queste cose non venne? Poi pigliano, mi va a paragonare che tu barroccio con chi sono? Non so, ci vediamo un po', mi sa che ho disinstallato metto Windows XP. Mamma mia, ma che non sapete come rovinare il computer, cazzo, siete fissati con questo XP. A me non mi piace. Vediamo, un po'. Signore, che bellaccio. Bisogna mettere lo stereo mix Realtek, la Realtek. E quello che con Windows XP qua. La grande. Ma ci vuole il programma tanto per quel computer lì. Ma sicuramente tu non lo sai, ma una fesseria metterlo. Magari è pure una cazzata, perché questi qua sono anche un po' automatici, basta che fa una cosa e via e anda. Non lo so tu. E vabbè, ci vediamo un po'. Allora, come qua, mi chiedo che mi prende, tutto ancora Windows XP qua, non l'hanno ancora toccato, ecco. Non so quando, però no, ancora va. Ma non va più, rimettiamo di nuovo Windows 7. Tanto non so da dirti. Ah, io l'ho provato, ma non mi piace lui, no. Lo esatto, sì, va, ma no, non preferisco più questo, il programma. Quello lì. Alla... Certo. Sì, vabbè, dipende anche da... Dipende da uno lo usa, ecco. Capito? Lo preferisco di più perché boh, mi trovo più bene, mi trovo. Perché io ho sempre usato questo, cioè più o meno ho sempre usato un Vita o questo qua. Quindi, cioè, andando a prendere l'altro, no, l'ho usato ma non mi piace più di tanto, hai capito? Lo trovo troppo differente anche come velocità e così. Vabbè, vedi, dipende da uno come lo usa tu. Anche della Fedemix non te ne frega niente, capito? A me interessa perché lo uso dove lo uso. Basta di sentire che va bene per te. Per come lo uso io, a me non mi va bene. Sicuramente ci può installare. Tutto stavo provando, tutto e tutto, ma poi, casino. Sono un po' particolare, sono, magari è pure una fesseria mettercelo, però bisogna vedere il programma giusto. Ma niente di strano che si possa usare un qualche altra cosa, e per aggiungiamo, cioè è un mistero, un pochettino, sono un po' misteriosi, sono, magari è una fesseria. Sicuramente sì. Te lo devo dire, sono un pochettino misterioso, se non lo sai qualche cosa, magari è una fesseria, Buromir, come è successo che quando abbiamo preso il primo Vita, che non lo sapevamo, praticamente andava a mettere il coso driver per installare una stampante e non te l'ha installata. Poi abbiamo scoperto tutto che cosa era. Cioè praticamente tu attacchi un coso, vai sul menu e se lo fa da solo. Se non c'è bisogno, c'è già lui, mi hai capito? Sì, ma vabbè, lascio altre impostazioni, solo quello, lascio altre impostazioni. Adesso vediamo un po'. Siamo brutti. Bisogna masticarlo un po'. Diciamo che un po' se ormai... Questo per di volte va bene, dai. Allora, che devi sapere alcune cosette, basta. Un pochettino strane. Ah, vabbè, dico le impostazioni, più o meno adesso, dai. Le impostazioni, più o meno. Ma così, proprio zero prima. Poi ho visto gli altri, ho fatto come fare. Mi sono fatto anche il disco di ripristino, formattato. Quello tienilo sempre. Ce l'ho. Fatto bene. Ieri, beh, per forza. Fatto benissimo, è stata. E certo. Ma per stasera. C'era le cose backup, come si dice? Backup, una cosa del genere, così è scritto comunque. Backup. Magari ho... Insomma, c'è un CD, ma lo so masterizzato. In genere, quando lo compri, la prima installazione è quello lì, si dovrebbe fare sempre. Sembra che è un DVD e un CD, Come cosa, capito? Se non mi ricordo male, quelli nuovi. Tu hai fatto tutto un DVD. Ma molte volte è un DVD, molte volte sono in due, sono. Ah boh, non lo so, questo non te lo so dire, comunque ci ho messo un DVD, ho pagato 60 centesimi, c'è l'esecutore, via. Poi può sempre essere utile, ti può essere. È fatto bene, Ti confermo. Fai così che si deve fare. Poi c'è molti pigliano di buono, non fai, no? Non prendono nulla. Ti cambia, tu l'hai buttato zero io. Se ti ricordi, una volta ho portato quel computer a casa tua, non lo so, raccontavo a tuo padre, quel fisso. Ti ricordi? spacco di buoni di dita, di mani. Poi trovo oggi, trovo domani, e da lì ho iniziato. Un passo di lavare a capricchio, guarda. Mettere i programmi, salarli. Ma è più difficile, invece pure una volta che prendi la mano, è un gioco. No, ragazzi, ho un massimo intelligente, se ci riesce a tutto. Ma grazie a Dio già... Ma prendo subito, va. E che ci può dire che sì. Se ci vuole prendere... Ma dice a voce, non è che si va... Non riesco, ecco. Io a voce sono dei piedi. E non è che tu mi dici, va su strato, vai qua, guarda, boom. No, non è che ho detto, una volta che non vedo, memorizzo. E poi tutto mi ha dubbio. Ah, c'è uno, ma c'è uno è tonto, purtroppo. È tonto e basta, no? Non c'è rimedio. Ma c'è uno una persona intelligente se ne capisce le cose. Ma infatti, visto, Molte volte noi vediamo qualcuno che ti pare tonto, ma magari è più intelligente dell'altro. Ma non è questione di essere tonti o meno, cioè questione di se uno non guarda, non impara. Per esempio adesso, no? Facciamo un esempio, di cantiere, non so che è fregato. Se no, ricordo, io ammazzo un muratore, ma si mette un sempre affuttito, mi dice, non abbariti, io mi passo un impatto e mi segnalavo. No, diciamo, la cosa la so fare, non è che sia proprio marimoncolo, ecco, però a quel punto sei stato matto, ma un muratore. Sbagliato, vai. Non so, purtroppo, vedi, non sono fregato, se no addirittura, per esempio giocare all'ora, cioè preferivo più ad accarrarmi. Ma ti mi dice, ma io papà, non ti dice confondi, usciamo proprio per tu, anzi, di fatto qua parlarti, tu non fai altro che fai il suo confondio, ecco, mettere blocchetti, fare tramezzi, capito? Cose così. E invece io vedi, insomma, mi trovo sempre, se vado, sempre a fare malo qua. Chiappa, e ha fatto male, fatto. Molto male, potevi... Oh, vabbè, non è che uno... Non si va a lungare, cioè se uno va a memoria a posto già può imparare anche subito, Adesso vediamo un po'. Ma cosa faremo? Cosa lo ti dice? Cioè, una cosa la so fare, non è che sono problema. Per quello. Oggi basta di una maglia. Ci mi dato 50 miglia della maglia. 50 miglia. Oh, via. Cazzo da... Da pasticceri a... Non ti dice. Manovrata, palattieri. Infatti, elettricista, idraulico, falegname, però ne ho fatto poco, come carico di macchine, poco lo stesso, sono la mia attività, ma faccieri, via, durava 500.000 lire al mese, entravo alle 2 di notte e uscivo a mezzogiorno. Vabbè, allora già si poteva fare. No, uno ha proposto 500.000 lire questo qua, per il figlio di lui, del principale, eh. Poi ci va così cosetto. E vabbè, sai, ti frittava giù un bottino di crema, io non lo vedo. Beh, io vabbè, cosa deve fare? Cosa c'è, piccolino mio? Venuto a farmi le coccole. Ti parlo di... guarda, senza esagerare, forse una ventina di anni fa, circa. Che è una diglia. Stiamo con una, due di due. Che anno era? Nell'84, che anno era? Fate il conto, 20 anni fa. 20 anni fa. Sono 80... 20 anni fa. Non 80. 80? Non 80. Siamo nel 2010. 90 tu, 90. Provata. E pare a poco strano. Provata. Siamo più. Fa più 5 anni. E 90. Diciamo sì. Siamo una nicchia. 20 anni fa. Di che anno sei tu? 84, sono 26 anni. E i minori, dai. Poi 15 anni, 16 anni, dai. Che anno è via? Vabbè. Pagava. È giunta a fame del coccolo, è giunta a fame. Il gatto? No, il gatto. Stai cuccata. Solo. Ciao, cammina, drommi. Adesso il tempo permette, domani si fa caldo, dopo domani la lappo. Faccio il bagno. Ciao, se ne sono la parola, rimanca sciagliata. Guarda, viene, adesso mi era solo, sarebbe venuto a farmi le coccole. Pure il cane mio, ma che ha parolato. Pagava. Oh Luca, io ti devo lasciare, dai. Dopo adesso è già tardi. Ciao, buonanotte, ce la risentiamo domani. Mi ha anticipato, tanto dai, ci sentiamo domani, ciao, buonanotte. Ciao.